Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. Mancava un quarto d'ora a mezzanotte quando siamo penetrati nel cimitero scavalcando il basso muro di cinta. La notte era buia, ma di tanto in tanto un raggio di luna brillava tra gli squarci delle fitte nuvole che percorrevano il cielo. Ci tenevamo vicini al seguito di Van Helsing che ci faceva strada. Quando siamo arrivati davanti alla tomba, io ho osservato attentamente Arthur, perché temevo che il trovarsi in un luogo carico di così tristi memorie lo sconvolgesse, ma ho visto che reggeva bene. Ho pensato che il mistero stesso dell'operazione contribuisse, in un certo senso, a neutralizzare il suo dolore. Il professore ha aperto la porta della cripta, e vedendo che noi tutti, per varie ragioni, eravamo esitanti, ha risolto il problema entrando per primo. Noi lo abbiamo seguito ed egli ha chiuso la porta, poi ha acceso una lanterna cieca e ha indicato la tomba. Arthur ha fatto un passo avanti, incerto, e Van Helsing, rivolgendosi a me, ha detto: «Voi eravate qui con me ieri. Il corpo di signorina Lucy era nella bara?» «Sì». Il professore si è girato verso gli altri per dire: «Avete sentito? Eppure c'è uno che non crede come me». Con il suo cacciavite ha tolto una volta ancora il coperchio della cassa. Arthur guardava, pallidissimo ma in silenzio, e si è fatto avanti quando il coperchio è stato sollevato. Evidentemente non sapeva che ci fosse anche un involucro di zinco, o non ci aveva pensato. Quando ha notato lo squarcio nello zinco, il sangue gli è salito per un attimo al volto, per ritirarsi subito dopo, lasciandolo di un biancore spettrale e sempre silenzioso. Van Helsing ha tirato indietro il lembo di zinco. Abbiamo guardato tutti e subito siamo indietreggiati. La cassa era vuota. Per alcuni minuti nessuno ha pronunziato una parola. Poi Quincy Morris ha rotto il silenzio. «Professore, io ho garantito per voi. Voglio la vostra parola e null'altro. Non domanderei una cosa simile in circostanze normali. Non vi farei l'affronto di avanzare un dubbio. Ma questo è un mistero che va al di là di qualsiasi onore o disonore. È opera vostra, questa? Io a voi giuro su tutto quello che per me è sacro, che non ho rimosso né toccato lei. È andata così. Due notti fa il mio amico Seward e io siamo venuti qui con buone intenzioni, credetemi. Ho aperto questa bara che allora era sigillata e noi l'abbiamo trovata vuota come adesso. Poi abbiamo aspettato e abbiamo visto qualcosa di bianco passare in mezzo agli alberi. Il giorno dopo siamo venuti di pomeriggio e lei qui giaceva. Non è vero? Amico John? Sì. Quella notte siamo arrivati appena in tempo. Un altro così piccolo bambino era sparito e noi abbiamo trovato lui, grazie a Dio, illeso in mezzo di tombe. Ieri sono venuto qui, prima di tramonto, perché al tramonto i non morti possono muoversi. Qui ho aspettato per tutta la notte, ma non ho visto niente. È molto possibile che è stato perché io avevo messo sopra cardini della porta aglio che i non morti non possono sopportare e altre cose che loro evitano. La notte scorsa non è stato esodo. Così questa sera, prima di tramonto, io ho portato via mio aglio e le altre cose è perché abbiamo trovato questa bara vuota. Ma avete pazienza. Fino adesso sono state molte cose strane. Aspettate con me fuori, senza che nessuno vi vede e vi sente, e vedrete che capitano cose ancora più strane. Ecco. E ha chiuso lo sportellino della lanterna. E adesso, fuori. Ha aperto la porta e noi siamo usciti e il professore che veniva per ultimo l'ha richiusa. Quanto a Van Helsing, era decisamente assai occupato. Prima di tutto, ha tolto dalla sua borsa una certa quantità di quelli che sembravano biscotti tipo wafer, accuratamente avvolti in un tovagliolo bianco. Poi ha preso due manciate di una sostanza biancastra, una specie di pasta o di stucco. Ha sbriciolato i biscotti e li ha mescolati alla sostanza, facendo un impasto con le mani e arrotolandolo poi in strisce sottili che ha applicato alla porta della tomba, sulle fessure degli stipiti. Piuttosto sconcertato da questo modo di agire e trovandomi vicino a lui, gli ho chiesto che cosa stesse facendo. Incuriositi anche loro, Arthur e Quincy si sono accostati. Il professore ha risposto: «Io sto sigillando la tomba così che la non morta non può entrare. E quella roba che avete messo lì avrà questo effetto?» ha domandato Quincy. «Caspita, ma è un gioco questo!» «Sì. E che cosa adoperate?» Questa volta a interrogarlo era stato Arthur. Van Helsing si è tolto con reverenza il cappello mentre rispondeva: «Ostie consacrate, io ho portato da Amsterdam. Ho avuto speciale autorizzazione.» Una risposta questa capace di confondere il più scettico di noi, e tutti abbiamo avuto la sensazione che di fronte a un proposito serio come quello del professore, un proposito che gli consentiva di fare uso di quanto esisteva per lui di più sacro, la diffidenza non fosse più possibile. Dopo una lunga pausa di silenzio e un grande, penoso vuoto, il professore ha emesso un fischio sottile, puntando un dito, e in fondo al viale di tassi abbiamo visto avanzare una bianca figura indistinta che stringeva al petto qualcosa di scuro. La figura si è fermata e proprio in quell'attimo un raggio di luna, filtrando tra i cumuli di nubi in movimento, ha messo in piena luce una donna dai capelli neri avvolta in un sudario. Non ne potevamo vedere il viso perché era chino su un bambinetto biondo. Ora lo distinguevamo bene. Una pausa, poi un gridolino acuto come quelli che fanno talvolta i bambini dormendo o un cane che sogna sdraiato davanti al camino. Stavamo per slanciarci avanti, ma siamo stati trattenuti da un cenno di ammonimento del professore che stava dietro un albero di tasso, e subito la figura bianca ha ricominciato ad avanzare. Ormai era abbastanza vicina perché la potessimo vedere bene, essendo la luna ancora scoperta. Il mio cuore si è fatto freddo come il ghiaccio, e ho sentito Arthur ansimare mentre riconoscevamo in lei i tratti di Lucy Westenra. Sì, Lucy Westenra. Ma quanto mutata! La dolcezza si era trasformata in crudeltà inflessibile, in crudeltà feroce, e la purezza in voluttuosa lascivia. Van Helsing si è fatto avanti e noi, obbedienti alla sua mossa, lo abbiamo seguito e ci siamo schierati tutti e quattro in fila davanti alla cripta. Van Helsing ha sollevato la lanterna, abbassandone lo schermo, e alla luce concentrata che cadeva sul viso di Lucy, abbiamo visto le sue labbra rosse di sangue fresco che le gocciolava sul mento, insozzando il candore del suo sudario. Abbiamo avuto un brivido di orrore. A quella tremula luce ho potuto constatare che perfino i nervi d'acciaio di Van Helsing avevano ceduto. Arthur era vicino a me, e se non lo avessi sorretto prendendolo per un braccio sarebbe caduto. Quando Lucy, chiamo Lucy, la cosa che ci stava davanti, perché aveva il suo aspetto. Quando Lucy ci ha visti, si è tratta indietro con un ringhio iroso e soffiando come un gatto colto di sorpresa, poi ha girato lo sguardo su di noi. Gli occhi di Lucy, ma occhi torbidi, ardenti di un fuoco infernale invece delle pure dolci pupille che conoscevamo. In quel momento ciò che restava del mio amore si è trasformato in odio e disprezzo, e se avessi dovuto ucciderla, l'avrei fatto con una gioia selvaggia. Mentre ci guardava, i suoi occhi brillavano di una luce malvagia, il viso si atteggiava a un voluttuoso sorriso. Oddio, che fremito di raccapriccio provavo nel vederla! Con un gesto di indifferenza ha gettato per terra, insensibile come un demonio, il bambino che fino a quel momento aveva tenuto fortemente stretto al seno, ringhiando come farebbe un cane sul suo osso. Il piccolo ha lanciato uno strillo acuto ed è rimasto lì a giacere lamentandosi. La gelida freddezza del suo atto ha strappato un gemito ad Arthur, il quale si è ritratto nascondendosi il volto tra le mani quando lei gli si è avvicinata a braccia tese, con un sorriso impudico. Tuttavia essa ha seguitato ad avanzare e ha detto con una grazia languida e voluttuosa: «Vieni a me, Arthur. Lascia quegli altri e vieni a me. Oh, le mie braccia sono bramose di te. Vieni, potremo riposare insieme. Vieni, marito mio. Vieni». C'era nel suo tono un che di diabolicamente dolce, qualcosa di simile a un tintinnio di cristalli, che risuonava anche nei nostri cervelli, sebbene le parole fossero rivolte a un altro. Quanto ad Arthur, sembrava colpito da un incantesimo. Togliendosi le mani dal viso, ha spalancato le braccia, ma mentre lei stava per gettarvisi, Van Helsing è avanzato di scatto e ha messo tra loro il suo piccolo crocifisso d'oro. La donna è indietreggiata, la faccia improvvisamente contorta di rabbia, e sfrecciandogli davanti si è diretta verso la tomba, ma a circa mezzo metro dalla porta si è arrestata, come se una forza irresistibile la bloccasse. Allora si è voltata e la luce e la lanterna, che non tremava più nella mano di Van Helsing, grazie al suo ferreo controllo, hanno illuminato distintamente la sua faccia. Mai avevo visto una simile espressione di malvagità frustrata. Né mai occhi umani la vedranno più, ne sono certo. Il bel colore è diventato livido. Gli occhi sembravano sprizzare scintille di fuoco infernale. Le sopracciglia erano corrugate come se le pieghe della pelle fossero le spire dei serpenti di Medusa, e la bella bocca lorda di sangue si spalancava a forma di rettangolo, come nelle maschere tragiche greche o giapponesi. Se un volto potesse esprimere morte, se gli sguardi potessero uccidere, questo noi abbiamo visto in quel momento. Per un mezzo minuto intero, che ci è parso eterno, essa è rimasta tra il crocifisso sollevato e la sacra chiusura dell'accesso alla sua dimora. Poi Van Helsing ha rotto il silenzio, chiedendo ad Arthur: «Ditemi, oh amico mio, devo procedere in mia opera?» Arthur si è buttato in ginocchio e, coprendosi il viso con le mani, ha risposto: «Fate come volete, amico, fate come volete. Un simile orrore non può esistere. Un gemito gli è uscito dal profondo dell'animo. Insieme, Quincy e io siamo andati verso di lui e gli abbiamo preso le braccia. In quel momento abbiamo sentito che Van Helsing abbassava lo schermo della lanterna. Poi l'abbiamo visto avvicinarsi alla tomba e togliere dalle fessure della porta il sacro emblema che vi aveva applicato. Tra lo sbalordimento e l'orrore, stavamo tutti a guardare. Quando egli ha fatto un passo indietro, la donna, che pure in quel momento aveva un corpo materiale altrettanto reale dei nostri, si è insinuata in un interstizio attraverso il quale sarebbe passata a stento la lama di un coltello. Abbiamo provato tutti una sensazione di sollievo quando il professore ha riadattato con calma le strisce di stucco agli stipiti della porta. Quando siamo stati soli e abbiamo sentito gli ultimi passi allontanarsi sulla via, abbiamo seguito in silenzio il professore come se ubbidissimo a un ordine fino alla tomba. Settembre, notte. Poco prima delle 12, noi tre, Arthur, Quincy, Morris e io, siamo andati dal professore. Strano a dirsi, indossavamo tutti abiti neri. Era normale che Arthur, essendo in lutto stretto, fosse in nero, ma Quincy e io ci eravamo vestiti così istintivamente. All'1:30 eravamo al cimitero, dove abbiamo girato un po' cercando di non farci notare. Così, quando i becchini hanno terminato il loro lavoro e il custode, convinto che tutti se ne fossero andati, ha chiuso il cancello, noi siamo rimasti padroni del campo. Invece della solita piccola borsa nera, Van Helsing ne aveva portata una lunga, di cuoio, simile a una sacca da cricket, che evidentemente pesava parecchio. Quando siamo stati soli e abbiamo sentito gli ultimi passi allontanarsi sulla via, abbiamo seguito in silenzio il professore come se ubbidissimo a un ordine, fino alla tomba. Egli ha aperto la porta. Noi siamo entrati e l'abbiamo richiusa. Van Helsing, tratta la lanterna dalla sacca, l'ha accesa. Poi ha preso anche due candele e, avendo accese anche queste, le ha fissate sopra altre bare, facendo gocciolare un po' di cera fusa dalle loro estremità. Così avrebbe avuto una luce sufficiente per compiere il suo lavoro. Quando ha sollevato di nuovo il coperchio della bara di Lucy, noi tutti abbiamo guardato. Arthur tremava come una foglia e visto il corpo che giaceva lì, in tutta la sua morta bellezza. Ma non c'era amore in me, soltanto odio per la abominevole cosa che aveva assunto la forma di Lucy senza averne l'anima. Ho visto che perfino la faccia di Arthur si induriva nel guardarla, ed egli ha chiesto a Van Helsing: «Ma è davvero il corpo di Lucy? O soltanto un demone che ne ha assunto l'aspetto?» «È il suo corpo e nel tempo stesso no, ma aspettate un momento e poi vedete essa come era». E come è? Quella che giaceva lì sembrava un'orrida copia di Lucy, come un incubo, i denti appuntiti, la voluttuosa bocca ammacchiata di sangue, una vista da fare rabbrividire. Quel suo aspetto così carnale, privo di spirito, parevano una diabolica falsificazione della dolce purezza di Lucy. Van Helsing, con il suo sistema metodico, ha cominciato a togliere dalla sacca i diversi oggetti che conteneva e a disporli per l'uso. Prima di tutto un saldatore e un po' di lega per saldare, quindi una piccola lampada a petrolio che, accesa in un angolo della cripta, emetteva un gas azzurro fiammeggiante, poi una serie di bisturi che ha messo a portata di mano, infine un paletto rotondo di legno con un diametro di 8 o 10 centimetri circa e lungo quasi un metro. Una delle estremità, temprata al fuoco, era molto aguzza. Al paletto ha aggiunto un pesante martello di quelli che si tengono nelle cantine delle case per frantumare il carbone. A me i preparativi di un medico per un'operazione di qualsiasi genere interessano sempre. In Arthur e Quincy, invece, hanno provocato una sorta di sgomento. Entrambi, però, raccogliendo il loro coraggio, sono stati silenziosi e calmi. Quando tutto è stato pronto, Vanelli si è già detto: prima di cominciare, permettete a me di dire a voi questo, che viene da tradizione orale ed esperienza di antichi e di tutti che hanno studiato i poteri dei non morti. Quando essi diventano tali, con mutamento viene la maledizione dell'immortalità. Loro non possono morire, ma devono, secolo dopo secolo, aggiungere nuove vittime e moltiplicare i mali del mondo, perché tutti che muoiono preda di un non morto diventano anche loro non morti e predano poi gli altri. E così il cerchio sempre più si allarga, come le increspature che fa un sasso gettato in acqua. Amico Arthur, se voi avete scambiato quel bacio che sapete prima che muore povera Lucy, oppure la notte scorsa, quando voi avete aperto a lei vostre braccia, anche voi a suo tempo, dopo che siete morto, diventavate Nosferatu, come li chiamano in Europa orientale, e facevate tutto il tempo altri di questi non morti che gli hanno così riempito di orrore la carriera di questa cara tanto sventurata signorina. È appena cominciata. I bambini che essa gli ha succhiato il sangue non sono ancora troppo rovinati, ma se essa continua a esistere come non morta, essi perdono sempre più il loro sangue perché vanno a lei che esercita potere su loro, e così lei succhia loro sangue con quella così perversa bocca. Ma se essa muore veramente, tutto allora cessa. Le minuscole ferite sulla gola guariscono e i bambini tornano ai loro giochi senza neanche sapere che è successo. Ma la cosa che è più santa di tutte è che quando questa ora non morta è fatta riposare come vera morta, l'anima della povera signorina che noi amiamo diventa di nuovo libera. Invece di compiere perfidie nella notte e diventare sempre più degradata di giorno in assimilazione di esse, lei prende suo posto con gli altri angeli. Perciò, amico mio, per lei sarà una mano benedetta, quella che infligge il colpo che manda essa libera. Io sono pronto a farlo. Ma tra noi non è nessuno che ha più diritto. Non sarebbe gioia pensare di questo dopo, nel silenzio della notte, quando sonno non viene. È stata mia mano a mandare lei tra le stelle. È stata la mano di lui che amava lei di più. La mano che lei tra tutte voleva scegliere, se lei poteva scegliere. Dite a me se tra noi c'è uno così. Noi tutti abbiamo guardato Arthur. Quando ha risollevato il capo, Van Helsing gli ha detto: «E adesso, figliolo mio, voi potete baciare lei. Baciate sue morte labbra se voi volete, come vorrebbe lei, se potrebbe scegliere, perché ora essa non è più un diavolo ghignante, non è più una cosa immonda per l'eternità. Essa non è più la non morta del diavolo». Essa è la vera morta di Dio e sua anima è con lui. Arthur si è chinato a baciarla. Poi l'abbiamo fatto uscire dalla tomba insieme con Quincy. Il professore e io abbiamo segato la parte del paletto che sporgeva, lasciandone soltanto la punta nel corpo. Poi abbiamo tagliato la testa e riempito la bocca di aglio. Dopo aver saldato l'involucro di zinco, abbiamo avvitato il coperchio sulla bara e, raccolti tutti i nostri strumenti, siamo usciti anche noi. Il professore ha chiuso la porta e ha consegnato la chiave ad Arthur. Fuori l'aria era dolce, il sole splendeva, gli uccelli cantavano e sembrava che tutta la natura fosse accordata su una nota molto diversa. Dovunque c'era allegria, gioia e pace, perché noi stessi eravamo calmi, ci sentivamo sereni, sebbene un po' malinconici. prima che andassimo via, Van Helsing ha detto: «Ora, amici miei, un passo di nostro lavoro è fatto, uno più straziante per noi. Ma rimane un compito più grande: trovare l'autore di tutte le nostre sofferenze e schiacciare lui. Io ho indizi che noi possiamo seguire, ma è un lavoro lungo e uno difficile, e c'è pericolo in esso e dolore. Non volete voi aiutare me? Noi abbiamo imparato a credere. Tutti noi, non è così? E poiché è così, non vediamo noi nostro dovere? Sì. E non promettiamo noi di andare fino al termine implacabile?» Uno dopo l'altro gli abbiamo stretto la mano impegnandoci nella promessa. Mentre ci incamminavamo, il professore ha aggiunto: «Due notti dopo, oggi, voi incontrate me e ceniamo insieme alle 7 con amico John. Io invito anche altri due che voi non conoscete ancora, e io sarò pronto a spiegare tutta nostra opera e svelare i nostri piani. Amico John, voi venite con me a casa perché io ho molte cose da pensare e voi potete aiutare me. Questa notte io parto per Amsterdam, ma ritornerò domani notte. E allora incomincia nostra grande ricerca. Ma prima io avrò molto da dire a voi, così che voi potete sapere che cosa è da fare e che cosa è da temere. Allora noi facciamo di nuovo la nostra promessa uno all'altro, perché davanti a noi è un compito terribile. E una volta che abbiamo incominciato a muovere i nostri piedi, non possiamo più tirarci indietro.» Arthur ha messo le mani sulle spalle del professore e, appoggiandogli la testa sul petto, ha pianto in silenzio mentre noi stavamo immobili.